13ª stazione. Gesù deposto dalla croce. Signore, ti attende il riposo del sepolcro. Nelle ombre della morte hai aperto ai giusti del limbo il cielo, mentre sulla terra, attorno a tua madre, si riuniscono alcuni fedeli per tributarti onoranze funebri. Nel silenzio di questi momenti vi è un primo lume di speranza che nasce. Questi primi omaggi che ti sono resi costituiscono il segno inaugurale di una serie di atti d'amore dell'umanità redenta che si perpetueranno fino alla fine dei secoli. Quadro di dolore, di desolazione, ma anche di molta pace. Quadro in cui si presagiva qualcosa di trionfale nelle attenzioni indescrivibili con cui è trattato il tuo corpo divino. Sì, quelle anime pie partecipavano al dolore, ma qualcosa faceva loro presentire in te il trionfatore glorioso. Signore, possa anch'io, nelle grandi desolazioni della Chiesa, essere sempre fedele, essere presente nelle ore più tristi, conservando la certezza incrollabile che la tua sposa trionferà per la fedeltà dei buoni, poiché l'assiste la tua protezione.